Risplendono, neve che profuma di estate, il frigorifero è pieno di idee, in mezzo al campo tante orchidee, cicloni di pioggia di colori, da scongelare quando arriva a sorpresa, è sabbia calda la mia umile casa, sul davanzale l'ombra di una rosa. Vedi che non porto anelli, occhi grandi come diamanti, non serve a nulla aspettare il domani, tu sei qui ora l'acqua dei miei mulini, quando vinci non cantare vittoria, quando perdi non perdere memoria, la ruota gira come una carriola, latte di mandorla. Mia parola, se ti sogno vorrà dire che ti penso, se mi pensi vorrà dire che ti amo, se ti trovo ti darò ciliegie, limoni, menta e melagrano, ogni chiave apre nuovi spiragli, ogni giorno porta nuovi consigli, dietro il mondo ci sei tu che mi guardi, con i tuoi occhi panorama di fiordi, non vedi che non porto anelli, occhi grandi come diamanti, non serve a nulla aspettare il domani, tu sei qui ora l'acqua dei miei mulini, quando vinci non cantare vittoria, quando perdi non perdere memoria. La ruota gira come una carriola, latte di mandorla, mia parola. Raccontami quando il cielo era aperto, quando bastava uno sguardo per illuminare tutta la pianura, tutte le erbe della tua schiena, un tappeto di palme ti aspetta, andiamo insieme, andiamo sino alla vetta, salviamo tutto, cenere e brace, e tutto quello a cui abbiamo dato luce. Non vedi che non porto anelli, occhi grandi come diamanti, non serve a nulla aspettare il domani, tu sei qui ora l'acqua dei miei mulini, quando vinci non cantare vittoria, quando perdi non perdere memoria, la ruota gira come una carriola, latte di mandorla. Mia parola, non vedi che non porto anelli, occhi grandi come diamanti, non serve a nulla aspettare il domani, tu sei qui ora l'acqua dei miei mulini.